La bellezza non passa se riesci a guardarla. Un po' come la rabbia se riesci a dosarla. L'insofferenza se riesci a curarla. La matematica se riesci a capirla. La bellezza non passa se riesci a fermarla. Un po' come la noia se riesci a riempirla. E la speranza in uno stato di grazia. E l'esperienza di chi non vive abbastanza. La bellezza è bellezza e non ha una distanza. La bellezza è bellezza e non è tempo che passa, che passa. Non passa se riesci a fermarla. Un po' come la sete soddisfatta dall'acqua. Il proprio cercare è un'idea di bellezza. E quando riesci a trovarla è semplicemente perfetta. Bellezza è bellezza e non ha una distanza. La bellezza è bellezza e non è mai abbastanza. La bellezza è bellezza e non ha una distanza. La bellezza è bellezza e non è tempo che passa. E non è tempo che passa. Fermarla e se riesci a riempirla, alla bellezza e bellezza, la bellezza e bellezza. La bellezza e bellezza.